nel modo come giocano, proprio sono in discordia completa col pallone. Non è possibile. Quando giocavo io era tutta un'altra cosa. Eravamo a livello quasi della Torres, che era una grande squadra allora. Avanti, Giocla. Purtroppo è così, Giulia. È così. Adesso poi che c'è il coso, viva sta droga, perché è una droga oramai del telefonino. Guarda, è una cosa micidiale, Comunque, Giulio, la nostra parte l'abbiamo fatta, tu più degli altri ovviamente. Oramai siamo entrati a una certa età, noi abbiamo fatto il nostro meglio, adesso gli altri se lo vogliono fare lo fanno, se non lo vogliono fare che mandino tutto il malora, tanto stiamo vedendo che sta succedendo di tutto e di più. Quindi ciccia. Sì, ormai è tutto finito. Oggi l'unico sport vero che conoscono la gioventù di oggi, lo sappiamo benissimo qual è, la moto, la macchina e la droga. Ecco, queste sono le cose che più le interessa, e soprattutto il disordine. Ah, e il bene, quello è perché tu già li vedi per le strade, anche le donne con la bottiglia della birra in mano, una vergogna. Io prima della pandemia tutte le mattine salivo, incontravo amici, andavo al bar a prendere un cappuccino, uno, due passe, e facevo colazione così. Ma c'era gente, addirittura alle 8:30 del mattino, anche donne, sedute a tavolino con la bottiglia della birra. A me mi faceva anche schifo vedere certe persone, grazie da quello che allora. Oppure qualcuno che entrava al bar così, no, magari essendo tu all'interno, entravano in due amici magari o tre, cosa prendi? Dammi un cognac. Ah, cosa cognac? Ma fuori dallo filo ferro, cosa cognac? Ma insomma, ma che tipo di amico è questo? Che ti permette, intanto vuoi offrire da bere al tuo amico e poi tu gli imponi di bere quello che vuoi tu. No, va bene. A parte il fatto che alle 8:30 del mattino uno non dovrebbe bere gli alcolici, uno al massimo beve un caffè, un latte, un tè, queste cose del genere. Invece c'è troppo anche alcolismo, troppa gente che ha il cervello baccato o già fra. Purtroppo è così. Questo è Sassari. Adesso tu li vedi, con la scusa del contagio, tu vedi che fanno la fila davanti in strada, davanti alla porta del bar, e il cameriere gli porta il caffè nel bicchiere di plastica all'esterno. Non puoi entrare dentro perché non puoi creare assembramento, però te lo creano lì davanti all'ingresso, una cosa vergognosa, proprio la gente incosciente, non capisce un accidente di come ci si deve comportare. Purtroppo è così, le prendi già fra. Infatti, per certi versi mi sa che non siamo neanche a metà strada con questa storia. Finché ci sono in giro questi imbecilli, c'è poco da fare. Sono degli illusi, pensano che con le cose il virus si intimorisca, il virus segue la sua strada, no? Non deve sentire nessuno, quello cammina, dove trova colpisce, c'è poco da fare, ma siccome la gente è abituata a essere, molta gente è abituata a essere viziata, oltre che essere anche viziosa, queste cose non le capisce, quindi dice sono tutte invenzioni, sono tutte cose fatte per limitarci in qualche modo. E allora la disgrazia, Giulio, è che il cattivo comportamento di certe persone poi fa anche a discapito di chi non c'entra niente, ma sarebbe bello se veramente diciamo la pallottola andasse a segno solo su quella persona che si è comportata male e non su tutti gli altri che non c'entrano niente. Purtroppo in questo caso non è così, perché ci piangono chi magari non ha colpa, seguito sempre le regole, eccetera eccetera. È così, d'altronde come si vuol dire, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, eh? Sì, non ci sono dubbi. In effetti è proprio così, per non parlare poi della maleducazione. Tu li vedi, ragazzi, da certi gruppi di ragazzi. Io parlo non solamente di maschi, parlo anche di donne. Parlando e non fanno altro che esprimersi sempre con parolacce in bocca. Ma quando mai una persona non si rende conto, ragazzi, che così sta perdendo qualsiasi contegno personale? Ma non è possibile, ragazzi. È una maleducazione diffusa ormai al massimo, in tutte e per tutte, in qualsiasi angolo della città dove tu puoi metterci piede. Poi permettiti poco a fare osservazione. L'altro giorno, un mese scorso, ero alle poste facendo la solita fila a distanza con la mascherina, eccetera, eccetera. E c'era questo ragazzo nero, c'era, a un certo punto si toglie la tasca della carta, prende e la butta per terra. Tieni presente che io vado lì alle poste centrali, no, mi abbia dato tasca, proprio all'angolo della scalinata, appena entri c'era il cestino della Mondezza, lo permette la Mondezza. Qualcuno si è permesso e gli ha fatto osservazione, ha detto ma perché l'hai buttato per terra? Mai gliel'avesse detto. Questo qui, una volta che è venuto qua a togliersi la fame, ha incominciato a inveire contro questa persona, rapida. E lui, tu mi dici cosa perché sono nero? Ha detto, no, tu non sei nero, tu sei solo maleducato. Perché qua c'è il cestino della Mondezza e la carta, anziché buttarla per terra, la dovresti buttare lì dentro. Insomma, alla fine, se forse si è reso conto, si è inchinato e l'ha raccolta la carta e ce l'ha rimessa in tasca. Pensa un po' con quale mentalità oggi la gente, questo era giovane, c'era stato un ragazzo che avrà avuto se no 22-23 anni, esagerando proprio 25 anni, non di più. Per dirti la mentalità della gente com'è, questo porcaccione venuto da fuori, caspita, a sporcare, oltre che a vivere dalle spalle degli italiani, sopra le spalle degli italiani, a sporcare anche la città. E se gli fai un minimo di osservazione, si arrabbia anche contro di te, capace che sia un coltello, in tasca ti dà anche una coltellata. Siamo arrivati a questo punto, non c'è niente da fare. Infatti la cosa più probabile è proprio quella che ti dia una coltellata. Non so se sicuramente hai visto anche la scena di quel poveraccio a Napoli che per salvare la famiglia andava in moto ed è stato poi aggredito per rubarle il motorino da quei quattro delinquenti veramente minorenni che ovviamente non le faranno niente. In quel caso invece gli avrei fatto la festa, dato che li hanno tutti arrestati, perché in Italia l'inefficienza, noi abbiamo un'eccellente polizia, guarda, perché di norma pizzicano tutti quelli che rompono le palle, quindi la polizia è molto efficiente. Poi quando t'arrivi, al grado di giudizio, iniziano poverino, ma è piccolo, ma è a prigione, ma qua, ma là, ma su, ma giù. Tutte le immagini, a parte il carcere, se noi facevamo un'azione del genere da giovani, cosa ci facevano i nostri genitori? Io, guarda, non lo immagino neanche, perché con una buona educazione certe cose non si immaginano neanche. Beh, certo, invece oggi non rispettano nemmeno i genitori, li prendono a parolacce, li picchiano anche. Capito, quando ero ragazzo io mi ricordo, magari per strada, si giocava per strada con tutti i sistemi di allora, no? E con le figurine, col Giro d'Italia, no? Cioè col Giro d'Italia che si tracciava per terra col gesso una specie di circuito e quei piattini schiacciati, i tappi delle bottiglie schiacciati e si andava avanti così, no? Si giocava. Magari passava un pinco pallino qualsiasi, un uomo anziano, ti chiamava, vieni qua tu, e tu tutto quanto sottomesso ti avvicinavi a lui, che cosa c'è? Vai a comprarmi le sigarette, sbrigati, che ti sto aspettando qua, mi. Non tardare, mi. Vedi, se poco a poco ti rifiutavi ti prendevo per l'orecchio, tipo, dove abiti? Tipo, e ti accompagnavo a casa tua, e poi i genitori stessi poi ti picchiavano perché non eri andato a comprare le sigarette al tizio che tu non conoscevi nemmeno, per dirti, no, era così. E invece oggi prova a andarti a dire qualcosa oggi ai giovani, anche i ragazzi di 14-15 anni, se un uomo grande gli dice qualcosa subito si girano, come quello che è successo lì in via Usai, in quella zona, quando è un mese fa, due mesi fa massimo, c'era questo ragazzino che stava urinando sulla porta di questo individuo, questo se ne accorge, è uscito un uomo di 30 anni o 35 anni, l'ha fatto osservazione, alla fine si sono messi in greffa e l'hanno anche picchiato, per dirti, no, come succede? Insomma, oggi non è possibile, guarda, non è possibile, la maleducazione oggi è in una maniera proprio esageratissima, una vergogna, ma non c'è da meravigliarsi che vada a picchiare una persona che non conosci, avete considerato che oggi picchiano i genitori, se non gli dai soldi magari per comprarsi la droga, è così Gianfra, purtroppo è così. E io, ecco come sono rientrato. E beh, il cagnetto ha smesso di piangere. Sì, ha smesso. E lo sai cos'è Gianfra, che stamattina l'ho portato molto presto perché dovevo andare fuori, e quindi l'ho portato presto alle 6:30 giù, e quindi non ce l'ha fatta aspettare alle 8, capito, doveva fare i bisogni e si stava lamentando per quello, non perché stava là. Però si fa capire, si sentiva anche alla radio. Sai, cioè, no, mica te la faccio qua, Io lo capisco il volo, la verità, lo capisco, tutte le cose che vuole le capisco, anche se non parla, è come se parlasse con me. Infatti, riprendi Giulio. Infatti è così che deve essere, cercare di capire l'animale, perché anche loro hanno le loro esigenze, e giustamente, come hai detto tu già, no, non parlano, però bisogna capirle. Questo significa che uno ci tiene all'animale che si ritrova a casa, ma ci sono quelli invece che gli danno certi pedati o certi colpi proprio perché magari non si comportano come vogliono loro. Ma dimmi tu, se tu puoi andare a picchiare un animale solo perché tu non fa quelle cose che vuoi tu, ma con chi stai parlando? Con una persona stai parlando che ti può rispondere o meno? Un cane non ti può rispondere. No, purtroppo è così già, cosa ci vuoi fare? La vita, basta pensare cosa fanno, te l'hai visto tante volte, ci sono quelli che si prendono il cane, dopo arriva il momento delle figlie, l'abbandonano, magari lo portano fuori in macchina e lo abbandonano, oppure lo legano a qualche palo, magari con la speranza che qualcuno se lo possa prendere poi, però lo abbandona, allora non è che avevi tanto affetto per questo cane, l'hai preso solo per fare mafia, per fare la barra, più che così non poteva essere. Va bene, dai, avanti Gianfra. Sì, ne approfitto per salutarvi perché fra poco sono le 19:20, quindi me ne vado a cenare presto, così almeno poi c'ho più tempo per fare qualcosa. Buona serata a tutti, ciao Giulio, ciao Gianni, ciao chi ascolta, e alle prossime. Se ce la faccio magari più tardi, ma è difficile. Riprendi Gianni. Ehi, ciao Gianfra, dai, buona carica quando la fai, al limite ci sentiamo dopo, poi un altro giorno, dai. Grazie per il questo, ci sentiamo alle prossime. Giulio, va. Ok, ciao Gianfra. Grazie per la chiacchierata, dai, ci sentiamo alle prossime. Buona cena e auguri comunque. La prossima volta ti do anche il mio numero di telefono, così viene considerato come il numero di tutti, e magari anche tu ce l'hai, però io il tuo non ce l'ho, il tuo è io e tu non hai il mio. La prossima volta che ci sentiamo magari te lo do, se per caso mi dimentico ricordamelo tu, così ti do il numero di telefono anche in diretta. e poi vedi tu cosa farne. Ok, Gianfra, alla prossima, ciao, ciao. Sì, ma è così già, purtroppo è così. Tornando al discorso del cane, fai bene ad essere attento con lo cane, perché, ripeto, è un animale ma ha le esigenze delle persone. Perciò fai benissimo a stare molto ma molto attento, perché sennò l'animale soffre. Stavo parlando di cani abbandonati, senza andare tanto lontano, ieri un pitbull, non un cane normale, un pitbull senza collare, senza guinzaglio, senza nulla, scorrazzando, è andato verso Teso per morsicarlo, ma Teso si è fatto rispettare, l'ha ringhiato, come l'ha ringhiato si è allontanato. E se non siamo andati da una guarda di birra, perché quei cani sono cattivi, ti prendono, lo prendono alla coscia, lo addentano, lo fanno cadere e poi lo prendono al collo, lo strozzano. Lo so, sono cani molto molto cattivi, infatti, ma io mi ricordo quando vicino a me c'era l'altra falegnameria, c'era un certo Antonio Brucchi che aveva la falegnameria dove c'è Davide adesso, no? Dopo anni che c'ero io, questo qui ha avuto l'intelligenza cretina di mettersi a fianco a me e aveva un cane anche lui. Nella casa che abita lì, che c'è lì all'angolo della strada, sempre lì di via Cervi, questo qui aveva il pitbull. Bastava che aprisse poco poco la porta di casa sua, partiva il cane direttamente dentro in falegnameria da questo blocco proprio per andare a musicare il cane. Tu pensa, e con questo magari il cane era dentro che lui non aveva nemmeno visto, evidentemente sapeva che lì c'era il cane direttamente dentro in falegnameria per andare, infatti il povero cane, grazie a beffa più di una volta l'ha fatto, fin quando poi il padrone ha avuto l'intelligenza di portarselo via da lì e l'aveva portato in campagna, non so chi l'ha dato. Per dire, no, è talmente cattivo il cane, il pitbull, che oltretutto è anche molto pericoloso, perché quello si gira anche alle persone, non solamente ai cani stesso, ma anche alle persone già. Il padrone del cane, per istinto, difende il suo cane, se vai a difenderlo ti si attacca addosso, ti va addosso il pitbull, non guarda niente. Se tu vai a prendertelo in braccio il cane per difenderlo, oppure cazzo vai a dargli un calcio e cose, ti si avventa addosso. E appunto, te lo sto dicendo, si gira anche alle persone, non, è pericolosissimo, non è, bisogna fare molto ma molta attenzione. Purtroppo è così, e cosa ci vuole fare? E il cane vuol saputo tenere, intanto devi essere sempre disponibile in qualsiasi momento, il cane ha bisogno di cure, ha bisogno di essere nutrito come si deve, senza dargli porcherie, eccetera, eccetera. E se tu non te la senti a fare tutte queste cose, allora il cane è meglio che lo lasci ad altri, perché sennò lo fai solo soffrire e basta. Purtroppo è così già, e cosa ci vuoi fare? Non tutti però la pensano in quel modo, io non ne ho mai avuto animali e non ne avrò mai, la verità, perché non voglio avere l'impegno di prendere, però questo non significa che io non voglia bene agli animali, anzi tutt'altro, però non mi prendo mai l'impegno di prenderne uno di cane, né cane né gatti, niente di niente. Perché mi è bastata la volta, avevo trovato un uccellino, l'avevo portato a casa, l'avevo messo in gabbia, dopo che ce l'avevamo un paio d'anni questo uccellino, una domenica mattina l'abbiamo trovato stecchito dentro la gabbia, e c'era mia figlia che era piccola, era stata allora, mai fosse più stesso, e non la smetteva più di piangere per questo uccellino. Allora dal giorno ho detto, boh, mai più, ma nemmeno un uccellino mai più, non animale, ma nemmeno qualsiasi tipo di animale mai più a casa. E allora è sempre stato così, e sarà sempre così già. Io mi lo più uno come te, che se non sente di tenere l'animale, non lo prende, piuttosto che uno che lo prende e poi lo tratta male. Ammiro più uno come te. Non ho motivo di trattarlo male, non è per quale motivo. Se a me un cane o un gatto mi attraversa la strada e sono in macchina, io cerco di evitarlo, io lo freno. Anche se c'è qualche macchina dietro, non me ne frega niente, freno e basta, perché non devo investire l'animale. E ci mancherebbe. Però questo non significa che io non voglio bene gli animali, assolutamente, anzi, tutt'altro. Sono anche contento quando un animale trova un padrone, chiamiamolo così padrone, che lo tratta bene, gente come ad esempio Antonello, come te, e come altri, che ce ne sono tantissimi che le trattano bene i cani, ma ce ne sono tanti che le prendono a pelate, per carità, dai, non è possibile. Non è possibile, io ad esempio mi immedesimo anche nel fatto di Antonello, anche da poco è dovuto ricorrere di nuovo dal veterinario perché il cane stava correndo e si era fatto male da una zampa. Subito ha visto che il cane zoppicava, subito l'ha portato al veterinario. Fortunatamente non aveva niente, aveva solamente una specie di stiramento o cosa del genere, dai. Gli ha dato la cura, ma per dirti, no, lì a quel punto cosa fa il padrone che vuole bene al cane? Va e paga e lo fa curare. Se fosse stato qualche altro, gli ribassa, non fa niente, lascia perdere, gli ribassa, meglio baedo che se poi ti accorri. Ecco, questi sono modi di pensare di tanti cretini, perché per me sono semplicemente degli imbecilli, quelle persone così. Io lo stesso a te, se ogni tanto lo porto, anche se non ha niente, a volte lo porto, lo faccio controllare, la gola, gli occhi, le orecchie, tutto quanto. Io ogni mattina li pulisco tutto, orecchie, occhi, tutto quanto, lo pulisco tutto il corpo con le salviettine, quelle umidificate antibatteriche. Però ogni tanto le faccio fare una visita, gli occhi, a volte non mi prende manco niente, capito? Perché vi conosce, vi servo da lui, questo veterinario è una persona molto, ma molto, diciamo, onesta, perché molte volte mi dice vai tranquillo, ci vediamo alla prossima, interessante che te lo stia bene. Sì, beh certo, sì, beh certamente così. Perché evidentemente anche quella è una persona che vuole bene agli animali, invece magari ci saranno anche dei medici, e questo non ho dubbi, che magari vedono solo soldi, quando tu lo porti vogliono soldi e basta, anche se magari lo guardano solamente, che non le fanno niente, purtroppo è così. E vabbè, che ore sono? Le 7:25, appena passate. Come vedi la frequenza è morta già, non c'è più nessuno, tutti morti, tutti in giro, e con queste giornate così di divieti e balle varie, e soprattutto di freddo, purtroppo non entra nessuno in frequenza. Come vedi siamo sempre 1, 2, 3, 4 massimo quando siamo in tanti. Riprendi. Buonasera. Ciao a tutti. Ciao Giulio. Ma cosa non c'è nessuno? Cazzo fuori il vero mondo, cazzo, via traffico, bubu. Appunto, ciao Tony, in carriera per il traffico. Infatti, in strada c'è il traffico, certo. Ma sto parlando del baracchino, il traffico al baracchino non ve n'è. E vabbè, poi ogni tanto qualcuno si sposta, anche che modulare su questo canale, che solitamente è il canale monitor per Sassari. Intanto in tanto qualcuno cambia idea e si sposta in altri canali. Vabbè, comunque. Andiamo a tessi. Avanti già. Vabbè dai, meglio pochi buoni che tanti che non servono. Io sono di quel parere lì, se dobbiamo farci un discorso ce lo facciamo lo stesso senza problemi. Kappa. Tony, stamattina dobbiamo andare a prendere Nida. Cosa c'era di macchine? Una file lunga, esorbitanti. Sono andato da mondo con Vanessa perché a mio figlio gli serviva una sedia per il computer e lui è sofisticato, se doveva comprare una di quelle belle cose, siamo andati a mondo con Vanessa. E niente, per arrivare lì va giù su mezz'ora. Ti credo, c'è un bel traffico, visto perché oggi è giallo Gianni, domani è arancione, poi c'è il rosso di nuovo, è un casino. Lo so, io mi sono dato a fare per... c'ho tutto a posto, diciamo. E quindi arrivo a Livorno e da Livorno poi dobbiamo viaggiare per forza. Perché altri treni non ce n'è. E se ce n'è qualcuno è a mezzanotte meno 5, arriva alle 2 qualcosa a Pisa, si blocca, si spegne e tutti a terra. E cosa ci dormi? 3-4 ore in salvo aspetto? Ma vediamo sul treno? No. Dormiamo lì a Livorno e poi si riparte di nuovo per Pisa, Bologna, Ravenna. Un casino praticamente. E niente, mi sono andato a fare, fammi la valigia, prendo un po' di roba, piano piano, non voglio che punto, un minuto, a farmi in fretta, tipo dimenticare qualcosa. Comunque, poco fa, Giulio, mi stavo ascoltando, ho acceso il baracchino, mi sono messo un po' in ordine qui, anch'io ho due cani, e ti dirò che le tratto veramente bene e le vizio. Tanto è vero che io parto non le lascio sola, soli i cani qua, perché c'è la mia ex-50, rimane qua in casa mia e tutto quello che è deve dare, non c'è problema, non gli manca niente. Io i cani ci tengo, l'ho fatto i vaccini, tutto quanto, adesso me ne tocca uno all'altro mese, quindi io i cani ci tengo, sono come, così posso dire, come figli, perché a me mi danno tanta compagnia. Gianni già lo sa perché ce l'ha che lui il cane, sa cosa vuol dire. Avanti Giulio. Io credo, beh certo, se uno si prende l'impegno di adottare un animale lo deve trattare bene, perché quell'animale ha un corpo, è un'anima, anche lui del mondo animale, magari l'anima non del mondo umano, però è come un umano, lo deve trattare bene, se no lascialo stare per conto suo o lascialo ad altre persone, il cane o il gatto o qualsiasi animale che uno prende, perché se no sei proprio uno scellerato, saresti uno scellerato, uno che farebbe male, del male al cane, perché il cane non ti fa male, al massimo ti fa compagnia ed è un bene per te anche, come tu stesso stai dicendo. È così che bisogna fare, curarli e stare sempre molto attenti, per tutto e per tutto, in tutto e per tutto, non solamente a livello di benevolenza, di malattie, di alimentazione, ma anche a livello del rapporto con altre persone, soprattutto tu ad esempio che sei fuori, che sei in campagna, quando il cane è libero, insomma devi stare attento al 100%, perché il cane è un animale che ha bisogno di tutte queste attenzioni, perché se no uno non, lo deve lasciare a conto suo il cane, o lasciarlo a chi lo sa tenere. Avanti Gianni. Ti dirò che il cane ha anche i suoi sentimenti, perché prova affetto per il padrone, si accorge quando il padrone è di malumore, va e lo lecca, prova anche dei sentimenti, anche a livello umano. Non ti dirò che il cane è anche così. Avanti, il cane è meglio del cristiano, questo è poco ma sicuro. Comunque già è vero, perché dicono meglio un cane amico che un amico cane. Sì, vero Gianni, al mille per mille, perché io da poco ho avuto un attacco nel disco il dolore, ti giuro, mi facevo uia, ma non so tu mi fai amare. È venuto e mi ha recato, c'è ragione, mille per mille. No, dai, il cane non ti tradisce mai, innanzitutto, perché se tu dovessi sgridarlo qualcosa, poi viene piano piano e ti lecca. È un cane che non porta rancore, è un cane più di un amico, è vero, mille per mille, comunque. Comunque già poco fa è suonato anche ExoShop, diciamo, spazio, Conat. Beh, fammi la ricarica, tu ci credi al Vodafone. Ci sono 12 persone pure aspettando, 10 minuti, 4 ore, a me sono scappato, no, ci rinuncio domani, con calma. Me la farò, che macchina ciccia. E il traffico che c'era per uscire, già, non ti dico altro, se tu eri stamattina, stasera è peggio. Riprendi, fa girare. Sì, ma non capisco il perché, hanno speso tutti i soldi a Natale e hanno ancora soldi da spendere, voleva sì che non è un bel... Avanti, Luca, buonasera, va. Luca. Rufa capolino e basta. Oh, dici che? Beh, sparito, oh, a meno che non è nell'altro canale, che stanno facendo questione nell'altro canale. Vabbè, dai, comunque, andavamo a tessi. siamo quattro gatti e poi si dispergono così nei canali, ma quando mai non si può stare sempre tutti quanti nello stesso canale per fare una ruota grande, così ognuno dice la sua, vabbè, comunque facciano come vogliono, chi se ne frega. Avanti Gianni. Ma che canale ci occupa tu? 23? Nel 40 sono. Ah, magari dobbiamo fare qualche prova, qualche cosa, e poi si sono tratti tutti. Magari non sono manco. E vabbè, ognuno fa ciò che vuole. Io vengo sempre qua, non ci vado nemmeno a spazzolare, figurati tu. In effetti così. E poi si lamentano, il bello è questo già, che poi si lamentano. Ma dico io, cosa c'è da lamentarsi? Se prima magari siete voi che non fate altro che spostarsi. Sappiamo che il nostro canale è quello, il canale 10. E basta, è inutile stare lì a andare. Allora ci vuoi evitare, io posso anche essere un pochino così, ma la fede. Voglio pensare che ci vuoi evitare, lo vuoi evitare la compagnia del 10, questo mi fa pensare, poi spero che non sia così. Avanti Tony. No, io preferenza di canali no, ma di persone sì. E ripeto, se sul 10 non trovo nessuno, cambio canale. Se trovo Gianni sul 18, entro sul 18 perché è già un amico e quindi lo conosco a vita e mi va bene modulare con lui, fare un po' di passaggi, mi va bene. Capito? Ci sei tu, Giulio, altre persone. Ma giustamente, molte persone si tengono su un canale, sono la solita circa, quello e quell'altro, ma è meno anche se si spostano, entro a quale canale, come dici tu poc'anzi, va bene, cioè poi loro non gli piace e non capito cosa c'ha quel canale in particolare. Per me è 10, 11, 12, 15, sono tutti canali normali. Se trovo gli amici io entro, mi faccio un piccolo pressio, poi limite nell'altro canale, altri amici posso entrare a salutare, ci c'è, capito? Ma non ho capito perché. Siamo in tre, chi vuole entrare non c'è problema, chi dove entra fa la battuta poi sparisce. Vabbè, come è fatto così. Anda bene, riprendi già. E avrà più impegni, magari sta cucinando, facendo, lui intanto ascolta, fa la legge di buco e poi entra. E vabbè, io mi sono tolto già tutti i problemi, ci ho portato il cane presto, perché stamattina sono partito verso le 8:15 e sono tornato a casa verso mezzogiorno, poi ho portato mio figlio da Coso, sono portato mio figlio da Conforama, insomma non mi sono occupato un attimo, stasera dopo pranzo ho detto adesso stacco tutti i telefoni e mi metto a letto, ma gli ho fatto una dormita fino alle 5:20. Già hai fatto bene, ti sei riposato. Si crede che io questo periodo non sto riposando più, mi sono drumendi in piedi, perché le dai. Lavoro niente, domani e poi lunedì, poi mi sono preso le ferie, perché poi giustamente devo partire, perché la segretaria che mi ha accennato, mi ha operato, un altro dice non ti conviene le malattie, perché se il medico fiscale poi ti trovi un macello, hai molte ferie, prendi queste ferie qua, poi sino a sabato, domenica giustamente poi il 17 a noi ci ricoverano, mi ti vai a fare il foglio e non c'è problema di ricovero, e poi partire la malattia con calma, capito? Niente, già, molto da fare altro, da una parte all'altra, fare quello, fare quell'altro, non far mancare niente sia ai cani che anche alla C4 viene qua, perché rimarrà qua giustamente, e quindi non vuol dire mancare nulla da là alla Z, capito? Poi, in via eccezione, se adesso c'è qualcosa, niente, chiama lo zio, non c'è problema, si fa un salto, capito? Ok, tutto qua. Vabbè. Giulio, riprendi. Ok, così almeno ti liberi di questo fastidio, Tony, fai bene, dai, fai bene, perché intanto è inutile stare lì, tirarla troppo alle lunghe, non fai altro che avere sempre questo dolore, invece vai, ti operi, ti fanno l'intervento e così poi stai bene, tranquillamente. Praticamente anche Manuele con te parte, tutti e due insieme andate? Sì, sì, ho fatto la parte della vista anche lui, ho parlato con il dottore che ci opera praticamente e adesso si fa l'obbligo subito e faccio la vista così, vi ho portato tutti e due, e viene con me Manuele, Manuele è messo più male però, male anch'io perché dico non è solo messo meglio, perché io dopo vi posso dire, dopo che faccio 200 metri massimo mi devo sedere perché sto troppo male, mi fa male. Manuele, poverino, si è inchinato, poi barcolla, no, sta molto male. Manuele, infatti, gli fanno un lavoro leggermente che dura un po' di più del mio, a me un piccolo taglio di 3-4 cm, taglio di legno a posto. Manuele invece gli devo mettere anche due spessori, diciamo sospensioni qua nelle vertebre, perché non so perché, boh, non lo so, glielo ho detto e lui un po' preoccupato, non preoccuparti, è il solito routine, quindi non, ma si è visto come si, capito? Vuoi continuare a camminare così, che poi è pericoloso, mi o Giulio, perché noi dove praticamente riescono queste cavo di erdia del disco, ci sono tre membrane che ci proteggono, queste membrane una si rompe, ok, ce ne ho altre due, ma se tu trascuri, si rompe la seconda, se poi si rompe la terza, caro mio, arriva al midollo spinale e tu vai a rotelle, non so se ti conviene. Io insomma quest'anno vado in pensione, voglio camminare tranquillo e beato, non me la tutti nulla. Avanti Gianni. Chi meglio di me ti possa ti può capire, Tony? Io ho rimandato, passerà, sarà una sciatica, sarà una dottoressa, ho fatto l'iniezione per i dolori, e non mi faccio le nudaghisce, non mi faceva nulla l'occhio, alla fine ho visto che era così, ho preso, ho fatto l'ecografia e si è verificato che avevo la testa del femore che era quadrata, non più rotonda. E stavo rischiando che mi consumasse anche la parte del bacino e se dopo non serve brutta mettere, ma con la protesi se trascuravo, capito? Perché poi consuma il bacino, la protesi che c'hanno sono universali, quindi ci ballano dentro, sempre si consuma. Ho deciso e mi ha detto il dottore che ho fatto bene a decidere prima che succedesse il peggio, perché ha detto che era proprio quadrato, non so, non era più rotondo ma quadrato la parte. Guarda, io a Manuele ho detto pure a cambiarsi il dottore, perché un dottore che gli va a dire a Manuele, quando ha detto mi faccio impegnativa per ricovero eccetera eccetera, che gli va a dire ma non ti operare, non ti conviene, aspetta ancora un po', vedrà che ti passa. Ma ha detto, ma il dottore cos'è, un cazzolaggio, e ha fatto le scuole elementari, cioè non ho capito. A me la mia dottoressa mi ha detto sto contento che si opera, giustamente, perché stanno da fuori, perché mi fido di andare fuori, in Sardegna non mi fido, tutto qua. Quindi un dottore che ti parla così a me vale zero, ho detto cambiatelo e basta. E tu hai fatto bene stesso a operarti Gianni, perché la vita è una, siamo di passaggio, ma se ce la trascuriamo, buonanotte, io me la voglio godere come tu te la vuoi godere, come tanti altri, poi c'è quello che se ne frega, peggio per lui, non domani lo vedi come si derottella la chiesa con quattro ruote, l'ha voluto lui, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Avanti Giulio. Ok, tu, beh certo, no, ma bisogna avere fiducia. Oggi la medicina è, diciamo che è molto avanti in tantissime cose, per cui avete considerato che ci sono queste possibilità, è giusto che uno si curi, perché se no poi chiaramente siamo sempre nelle mani di Dio, ci mancherebbe altro, però non puoi tu dire di no. So benissimo che uno soffre anche quando fa sia in ospedale eccetera, puoi soffrire, però si fa sempre per cercare di rimediare al problema che uno ha, ci mancherebbe altro. Io a queste cose sono stato sempre molto, ma molto sensibile. Io mai mi permetterei di dire a una persona vai, non lo fare, ma vuoi scherzare? E come faccio io a permettermi di dire certe cose? Io non me ne intendo, non ne capisco, io ho fatto un altro mestiere nella mia vita. Però i medici lo sanno qual è il lavoro che devono fare, per cui ti devi fidare anche di loro. Anzi, devo dire che io ho sempre incoraggiato la persona che si è sentita male, l'ho sempre incoraggiata a dare fiducia alla medicina, a dare fiducia ai medici, perché sono loro che possono salvarti in tutto e per tutto. Perciò non si può uno permettere di dire, come stavi dicendo tu, questo dottore vai non ti operare, ma lì c'è proprio un cazzolaggio, non è, anzi, con tutto il rispetto per il cazzolaggio, tra l'altro, ci mancherebbe altro, ma comunque ognuno si comporta da imbecille tante volte, oppure da persona intelligente, dipende dal soggetto. Avanti Gianni. Tony, ma poi dopo l'operazione voi siete in grado di camminare tranquilli, vi ha detto, oppure avete bisogno di qualche supporto, di qualche cosa? Ce la fate a tornare tranquillamente con le vostre gambe? Allora, il dottore mi ha detto, anche già mi ha tolto la visita di Ippolito, mi ha detto con Manuele, a Voghera fa la visita, e mi ha detto in faccia a Manuele, e mi ha detto, a te ti faccio l'operazione la mattina, la sera ti ci mando via, puoi già andare via. Ma come fai se sei venuto con tuo figliuccio? Mi ha detto, ma dottore, rimango qualche giorno in più per Manuele, dice lui, dura qualche giorno in più, ok. Sì, dobbiamo metterci questa fascia con le stecche, che io ce l'ho già, l'ho pagata già 110 euro e ce l'ho. Emanuele mi ha fatto vedere che lui c'ha la fascia al prossimo, ma quella non serve, ci vuole quella con le stecche. Quindi bisogna che se la prende, perché giustamente per tenere il muso dritto poi c'ha i punti e capito, devi fare un viaggio, non è che puoi strapazzare più di tanto. Sì, comunque Gianni, possiamo già la sera a pigliare andò Zimmi. È meglio così. Io invece, forse la mia operazione era diversa, sono dovuto tornare con l'ambulanza a casa, mi hanno messo sul letto loro, poi per scendere dal letto dovevo mettere il piede sotto l'altro piede dove ero operato, farlo scendere piano piano come se fosse una gru, lo aiutavo a scendere dal letto. E poi dovevo stare un po' fermo seduto, perché sennò se mi alzavo di colpo mi veniva a capogiro. E vabbè, è passato un po' di tempo che ero molto, ma molto debole, molto, molto, molto, proprio perdevo l'equilibrio. Cosa tutta giù passata, solo le stampelle dovevo usare. Gianni, la tua operazione era molto, molto più, diciamo, seria di quello che devo fare io, la mia solita routine, 3-4 cm, 3-4 punti e via, capito? Le lene e basta, perché a parte ho sentito vari commenti, a parte di tante persone si è operata la stessa linea della mia, quindi è ovvio, tu hai subito un'operazione, diciamo, molto più delicata, è ovvio che non ce la fai a stare in piedi, a me è una cazzatina, capito, con fronte a quella che tu hai fatto, e giustamente ti capisco, comunque hai fatto bene a farlo, perché giustamente lo devi fare, perché la salute è tua, se ci tieni a te stesso lo devi fare e basta, non trascurare, perché se noi trascuriamo tutto, prendiamo, è un discorso anche valido questo che sto facendo, prendiamo a Giulio, lui era un falegname, che tutto gira stesso, per lo farà lo stesso, allora prendiamo un mobile che si rompe la gamba, quando ti metto una mascellina si rompe, sforza anche se gli altri piedi, non trascuri per fino a zirappe che si faccia adulto, ma è così la persona, se tu la trascuri un piccolo dolore che c'hai e sai che c'è un nene nel disco, o c'hai un menisco rotto, c'hai una tibia fratturata, insomma se non ti curi vai a finire peggio, è inutile, non bisogna trascurarsi tra se stessi, se uno ci tiene, se uno ci tiene può fare quello che vuole, ripeto, io penso alla mia personalità, giustamente dico sto andando in pensione, io ho tanta voglia di camminare a piedi, va la bacia all'altra, che il dottore dice devi dimagrire un po', sì, devi camminare, e cosa cammino? Che faccio 50 metri, mi devo bussare, che mi va a zenare, mi tira il disco, quando mi opero sia tranquillo che faccio tanto di quella strada, quindi non c'è problema. Avanti giù. Sì, ma è così Tony, uno non ci deve trascurare, ci mancherebbe altro, la salute deve essere sempre in primo piano, deve sempre curarti, chiedere aiuto da chi ne sa, da chi ti può aiutare, in questo caso i medici, d'altronde diversamente uno va andando e peggiorando, non è che uno guarisce così da solo, senza l'intervento di un dottore o senza la cura che ti può dare un dottore, assolutamente no, d'altronde se ci sono stati tanti studi, per quale motivo uno non ne deve usufruire, qui si è considerato quando uno ha un problema, poi chiaramente non sempre riesce, certo, questo lo sappiamo, siamo consapevoli, ma siamo adulti e queste cose le dobbiamo mettere anche in preventivo, però se tu non fai niente non ti devi aspettare niente, vai anche andando e peggiorando, non c'è niente da fare. per cui devi avere fiducia nel prossimo e soprattutto nella medicina e di chi ha studiato per anni e anni e anni proprio per il bene della gente, per curare la gente. Se uno non si cura, allora uno ha bisogno di un altro tipo di cura, cioè quello del cervello, di farsi curare il cervello per farle capire che non si deve trascurare in queste cose, sono cose molto ma molto importanti. Non vogliamo scherzare. Avanti Gianni. Anche io diciamo che prima pensavo sempre per gli altri, più per gli altri che per me, adesso voglio bene anche a me stesso, perché anche se ho ritardo, però sto pensando anche a me stesso, la cura della persona me la faccio, se c'è qualche problema vado al dottore, eccetera, eccetera. Prima un po' me la fregavo, pensavo più agli altri che a me, capito? Lo so, ripeto, io sono una persona molto sensibile, anzi devo dire che tante volte quando uno qualche malanno, devo essere sincero, più di una volta mi sono fatte gli occhi lucidi dalle lacrime, perché appunto penso alla persona che sta soffrendo. Io sono fatto così e cosa ci vuoi fare? Speriamo bene, speriamo che nessuno abbia mai bisogno di essere curato a certi livelli, finché si tratta di un raffreddore, vabbè, ben venga anche un raffreddore, però nel giro di qualche giorno poi bene o male uno se lo fa passare, ma quando incominciano problemi di un certo rilievo è chiaro che ti devi assolutamente rivolgere al dottore. Ma vuoi scherzare? No, va bene, se no vuol dire che non hai voglia di campare tranquillo. Avanti Tony. Io sono 6 anni con questo disco, ho trascurato anche troppo, perché facevo la cura, mi passavo e dopo 2 anni di nuovo. Ho fatto la stessa cura e non mi passava più, sono andato all'ospedale, mi hanno fatto un'altra cura ancora e mi è passato 2 anni e poi via. Adesso niente, tutte le cure sono tutte zero, perché l'ernia del disco è uscita un po' di più, comprime sull'ergo sciatico, e quindi da operare basta, è arrivato a questo livello, basta, non voglio più soffrire, sono tonisi così, mi sono deciso, basta, perché io, ripeto, ho paura, la verità, ho paura dell'anestesia, non peraltro, che dico, fa l'anestesia locale, e mi ha detto no, è più pericolosa perché ti puoi muovere, quindi, vabbè, vuol dire che mi addormento, dove ti chiama. Niente, mi devo fare coraggio e ciccia, mi devo operare perché se voglio continuare a camminare io devo operarmi. L'ho deciso e quindi lo faccio, perché una buona volta voglio camminare e tornare come prima, a fare tante camminate. Va bene, io vi ringrazio per questo picco che abbiamo fatto, perché adesso devo prepararmi qualcosa per la cena. Non vi raggio se mi do che mi prepara, devo fare tutto io. Ok dai, Giulio, io ti saluto, ti accoglio familiare, buon carico quando lo fai, ciao Gianni, stammi bene, buon carico quando lo fai, ci risentiamo quanto prima, anche prima di partire già entra la frequenza, a voglia, tanto parto mercoledì mattina, quindi entro martedì ci sentiamo. Buon proseguo, statevi bene, ciao a tutti e grazie del consiglio, rifiuti Gianni. Ehi a tutti, buon carico, forse non ci sentiamo, a te Emanuele. Bocca al lupo, se non dovessimo sentirci, ti ho già fatto il mio augurio. Avanti e buona carica, avanti giù. Ok, ciao Tony. Io intanto ti ringrazio per il questo, è stato un piacere e soprattutto ti faccio i miei migliori auguri. Naturalmente se no ci sentiamo ancora prima che tu parti. Te le rinnovo anche se per caso ci dovessimo risentire, sperando anzi di risentirci ancora prima di partire, per cui però in ogni caso i miei migliori auguri Tony a te e anche a Emanuele, se per caso lo sente, se hai modo di sentirlo, tanti saluti anche a lui da parte mia, ci sentiamo. Grazie Tony ancora per la chiacchierata, buona cena, alle prossime. Ok, avanti Gianni. Ok, ho ascoltato Finalino, vi ringrazio del cuore, a te, a Gianni e credi il lupo Gianni, ok, quando poi ritornerò vi vorrei di nuovo trovare frequenza, così vi dico le mie avventure, ok, D'accordo, state bene, grazie di tutto, buon proseguo. Ciao ciao. Ciao Tony. Dai Tony, ci sentiamo, avanti. Ok, ciao di nuovo Tony, ciao. Alla grande. Quindi tieni sul morale anche di Manuele, perché non mi sembra che ha il tuo stesso carattere. Cioè diglielo che per fare queste cose bisogna andare deciso. Ci deve andare deciso, perché è molto importante. È molto molto importante questo particolare. Quando uno ha questi problemi è giusto che uno ci vada deciso, senza stare lì a pensarci tante volte, perché è molto ma molto importante. La decisione è il coraggio che uno può avere. Più ne ha coraggio, meglio è. Vabbè, ciao ancora Tony, se si è ancora ascolto, alle prossime. Avanti già. Scusai, che io aspetto sempre il finalino, poi chiudo. Spiego tutto. Sì, lo sto spronando parecchio, Emanuele, non c'è problema. Fortemente convinto, puoi trovare, mi sto fermando anch'io, quindi non preoccuparti, sarò vicino a te. Sei mio figlioccio, quindi è come che sei mio figlio. Non c'è problema. Vi rinnovo il saluto anche da parte vostra a Emanuele. Senza quel dubbio. Ok, ci risentiamo lei prima di qualche parto. Di nuovo, adesso spiego tutto. Ciao a tutti, grazie. Ciao ciao. Ehi Tony, sono il fatto di non avere più il dolore, guarda, una cosa grande, credimi, che io l'ho provato e lo so. Non avere più il dolore la notte, di giorno, eccetera. Fare l'operazione è una mano dal cielo, dai. Avanti giù. Certamente sì, già, ma è così. È così, in effetti è così, ripeto io. Purtroppo questo carattere che mi commuovo addirittura per gli altri è più forte di me, perché io alle persone ci tengo soprattutto agli amici. Io già non posso fare a meno di sentire emozione, purtroppo sono così. Sarà un difetto o sarà bene, un bene, non lo so, comunque sono così. Avanti già. Non è un difetto quello che succede anche a me, Giulio, non mi vergogno a dirlo, specialmente dopo che è nata la mia prima figlia, che è nata Manuela, io sono diventato di una sensibilità unica. Quando mi sono visto questo batuffolo piccolino, cosa, un'emozione grande che ho provato lì e ho continuato a emozionarmi per ogni cosa. Anche quando sento del terremoto, di queste cose qua, io mi emoziono, anche per il telegiornale. Avanti, break. Avanti. Sta parlando. Avanti, chi sei? Lupo Grigio, tu sei? K100, Lupo Grigio, buonasera, mi hai sentito, cordialità. E Santiago, e sì, la radio è 3. Ti hanno sovramodulato. No, vabbè, comunque, l'hai messo poi il coperchio. Puoi fare anche così raffredda bene. Kappa, avanti chi vuole entrare. Salve. Chi è? Io. Ciao lì. Ciao, saluto a tutti. Ti sento un po' strano, sentivo questa ventola, questa cosa di sottofondo. Ma cosa c'è, ventola attaccata? Secondo te l'hai mettato il cinese quello, Rumoroso, metti il silenziatore. Oh, non me ne frega niente di quello, ci mancherebbe. Lo sto usando adesso perché l'alternatore ha dei problemi con la fonte di iodi, quindi devo cambiarlo, capito? Lo faccio con calma adesso e per quello che sto usando il baracchino, hai visto, non è che sto dentro tutti i giorni, dentro qualche volta lo sai che ho problemi, quindi a un certo punto il baracchino è una cosa a parte. Vabbè, quando lo devi per rilassare, lascia perdere la birra e attaccati al baracchino. Quando devo rilassare, a parte, devo stare qua, non è che devo rilassarmi, ci mancherebbe. Poi intanto io non sei riaccendo, non sempre, quindi io sono Catonino, se mi sta ascoltando, non so neanche cosa è successo, la verità, perché non ho manco ascoltato. Questo mi stava chiedendo e eccetera eccetera. Lo saluto e non c'è problema, da parte mia se sta ascoltando. Poi tutti gli altri che sono in questo canale, ero su 40, poi vabbè, mi hanno chiamato al telefono, mi ha chiamato Giuseppe Bandera Giala e ero lì. mi ha detto di salutarvi tutti, e appena lui dice che sta della spazza, e quindi se siete a Balacchino ve lo faccio sentire a Balacchino. Chi ho capito, bandiera gialla. Sì, è Giuseppe Bandiera Gialla, te lo dico, di quello di Campanella. Sì, mi ricordo il nome un attimo vagamente, ma non lo conosco. Avanti Giulio. Io che infatti stavo aspettando che il microfono proprio per salutarvi, dai, sono già le 8 e dunque devo scendere per la cena. Ciao Antonello, salutoni, alle prossime. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo eventualmente domani se coincide, dai. Alle prossime. Le prendi pure Antonello, io ascolto il finalino e dopo chiudo. Ciao ciao a tutti e due, vai Antonello. Yeah, ciao Giulio, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, buon quarete e buon tutto. Ciao ciao a tutti di nuovo. Ciao ciao Giulio, ci sentiamo. Ciao. Ciao Marco, mi sembra che è entrato Marco, ci sentiamo, ciao ciao, chiudo. Ciao ciao, avanti Marco. Sì, Marco Sgorbio. E beh Marco, capo, ho visto che hai sentito che ha fatto cucù, però non capivo chi era. Capo, buonasera Marco, mi hai sentito, avanti. Capo, aspetta che c'è un problema, sono Sgorbio. Un attimo, ciao a tutti, ciao Giomarì. Giomarì. Di che si tratta Marco? Problemi radi? No, problemi sessuali, aspetta un attimo. Che maniaco, guarda, scarica tua moglie, lasciala a casa, entra a Balacchino. Avanti, chi è? Chi sei? Ti sento basso basso, non so da dove stai modulando. Aspetta che provo a attaccare il coso. Ho amplificato l'antenna, vediamo un po' se ti ascolto bene. Prova! La voce non si sente, è proprio bassa bassa, capito? Sento che parli ma non si capisce cosa dici, è un casino. E adesso sei una bomba. Sì, adesso va bene, c'hai l'eco e va bene. Dove ti trovi, Massi? Dove? Alla Maddalena, sì. Via. Ah, via Maddalena, ho capito, dai, ho capito la Maddalena. Andare Massimo, dai. Mi hai sentito, cordialità, sei nuovo oppure diciamo sei vecchio come ci hai anche troppo eco, se lo vuoi abbassare appena appena l'eco è meglio. Adesso sono un bombone. Cosa c'hai? 48 modificato? Io me l'ho venduto, dai. Forse me ne sono anche pentito. Ce l'avevo bello, c'aveva tutte le manopole blu, era stilizzato sopra, c'aveva la bandiera americana, insomma era fatto bene. Era bellissimo, c'aveva ecco, 120 canali, insomma un po' di tutto di più per l'ascolta, era completo, solo che in casa non si può tenere quello, io lo tenevo in macchina quando viaggiavo al lavoro, adesso sono in tensione. E niente, non lo sto più usando, prima viaggiavo a Portotone se lo usavo, adesso in macchina non la stavo più usando e l'ho portata a casa, ma per me troppi splatter. Ah, che ha pagato. E vabbè, adesso non lo utilizzi più così, non lo stai più utilizzando per andare fuori. Ah, che ha pagato. E vabbè. Ok, dai, adesso te lo utilizzi a casa. C'hai anche altri apparecchi, ma ce l'hai fisso in casa? Sono sordo. C'è qualcuno che sta mistificando il mio indicativo. Chi è? Avanti questo grogo. Marco Scorpio, buonasera. Marco, stavano parlando. Va bene, dai. Riprendi Marco, riprendi tu, dai. Non li sento, io non sono a casa mia, mi devo accontentare qua, quando sono a casa d'altri un impianto così, quasi insufficiente già. Ciao, buonasera. Ma si stavano spacciando per me, ho sentito che c'era un grongo che parlava, ci ha presentato Marco Scorpio, ma l'avevo io. Mi meraviglia già che non ha riconosciuto la modulazione, ma cavolo, e tu già mi conosci da tempo. E infatti ho detto, non mi sembrava lui, l'ho detto anche. Ciao, buonasera a tutti. Dimmi una cosa, già sto provando uno di questi baracchini, come va? Bene, bene, non so dove tu sia, però ti controllo di segnale, tipo 4 chiavi. No, la modulazione mi interessa, già il segnale lo salto, aumentare o diminuire un appiaccimento, e quello che conta è la qualità della timbrica, della modulazione. È anche troppo forte, non è, diciamo così, la modulazione è molto, molto potente, quindi se fosse stata un po' più bassa sarebbe andato meglio. Ok, dai, ma allora abbasso un po' la tonalità della voce. Molto bene. Ascolta, già, puoi fare una prova in banda laterale, che lo proviamo in USB? Sì, mi sposto un attimo, scusate. Vai a 200, 27200 in 205, canale 20, in USB. Ciao a tutti, scusate, facciamo una prova con Gianni, ritorniamo dopo. Marco! Dimmi, Ari. Metti il processore prima, se senza processore solo può fare una prova. Qua non ce n'è processore, qua l'unico processo è quello che possiamo fare in via Roma, non ce n'è questo. Cosa ne so allora? Ti sento senza processore, sembra un ammodatore, un chiavo senza processore, la verità. Con il microfono normale, quindi figurati tu, immaginati com'è la modulazione. Vabbè, dai, prova, fa le prove di là, nel 20.